Imparo lo Zohar con Rabbi Michael ben Pesach Portnar. Parte terza, lezione 29. Abbiamo visto che la lettera Tav non può fornire il passaggio per la continuità. La lettera Tav dice alla lettera Tav e non oltre. La lettera Tav è sigillata. Come dovremmo passare di sotto la Parsa sotto? Come possiamo trasmettere la luce in modo kosher a un inferiore? Ora guarda come si sviluppa. La domanda di qualcuno qui è stata quando la Tav è stata sigillata. Come viene poi giù tutto, eccetera. Bene, viene dalla gamba della lettera Kuf. E tutte quelle altre lettere dopo Kuf, Resh, Shin e Tav. Cosa succede con esso? Andiamo avanti. La Tav non si è qualificata. È chiaro. La lettera Shin venne a lui e gli disse: Maestro dei mondi, è bene per te di creare il mondo attraverso di me, perché in me è chiamato il tuo nome Shakai, ed è bello creare il mondo attraverso il santo nome. Lui le disse: Sei buona, bella e vera, ma poiché le lettere della parola Sheker, menzogna, ti hanno raccolto in modo da stare insieme a loro, non desidero creare il mondo attraverso di te. Lettera Shin. Sappiamo con le lettere, più sono alte, più è santo, più vicino alla luce. La lettera Shin venne a lui, eccetera. Asulam ora dà la traduzione in ebraico. Prima venne a lui la lettera Shin, e lei disse davanti al suo volto: Maestro dei mondi, è buono per te. In inglese ora c'è differenza nella forma cortese verso qualcuno che ritieni più alto e più distante da te stesso, e una versione più confidenziale da te. Ma in olandese e in altre lingue c'è una differenza nelle parole, che qui nel testo viene menzionato, che è usata anche la variante confidenziale da te per rivolgersi al creatore, non per una versione superiore da te, ma per una versione confidenziale da te. C'è una connessione assoluta di tutti gli esseri con il creatore. Come può l'uomo dire la versione distanziata di voi al creatore? Solo le persone religiose possono dirlo. Qualcuno che è collegato con il creatore non può dirlo. Io dico sempre la versione confidenziale da te. Non può essere in altro modo. Non importa che lui è eterno e io non sono niente. Nei libri di preghiere ebraiche è anche scritta la versione distanziata da te. Ciò che è scritto proviene da ebrei ortodossi che hanno fatto traduzioni. E le traduzioni ortodosse non sono corrette. Essi mostrano come intellettualmente, come altamente civilizzato parlano olandese. Ancora, nelle sinagoghe usano un linguaggio di alto livello che non è per questa era. Non diciamo mai la versione confidenziale di te al creatore. Gli ebrei hanno tradotto questo per compiacere i loro fratelli cristiani. Non è corretto con il testo originale. Nel testo originale è scritta la versione confidenziale da te. La lingua è bella e semplice, semplice melodia come Mozart, senza vincoli. Il linguaggio delle preghiere va bene, come le acque che scorrono, e non la versione di distanza il tuo padrone. Impareremo tutto questo. Di nuovo, non aggrapparti a ciò che hai imparato, rilasciare. Tutte queste preghiere le dobbiamo imparare in modo diverso. Questa era una buona domanda. Maestro dei mondi, dice, e in un'altra parte è buono per te. Questi due modi differenti, enorme soggezione da un lato e amore e fiducia sull'altro, devi averlo. Maestro dei mondi è buono per il tuo volto, per creare il mondo attraverso di me. In me il tuo nome è chiamato Shakai. Si pronuncia con Dalet D invece di K. Quindi Shaddai. La prima lettera di Shaddai è Shin. Shaddai significa il nome del creatore nella sua capacità di onnipotente. Quindi non misericordioso o Elohim, severo maestro, ma onnipotente. Presto vedremo dov'è quell'onnipotenza, con quale sfira è connessa. Saremo quindi stupiti di ciò che ci manca e di ciò che deve ancora venire per noi, a cosa dobbiamo prestare attenzione, perché se questa sfira nei mondi superiori corrisponde al nome del creatore, che è Shaddai, onnipotente, e così sopra, così sotto, allora ci deve essere anche un posto simile nell'essere umano interiore, associato con questo nome. Se porti quel posto in te stesso in corrispondenza con il luogo nei mondi superiori, allora avrai la stessa onnipotenza dentro di te. Onnipotente su chi? Naturalmente sul tuo cattivo principio. Ecco cosa otterrai. Andiamo a guardare. La lettera Shin dice: in me il tuo nome è chiamato. Questo è ciò che mostra nel nome Shaddai. La prima lettera è Shin. È piacevole, bello, meraviglioso creare il mondo con il santo nome, cioè Shaddai, che è un vero nome del creatore, mentre Emet, verità, è un attributo del creatore, ma non ancora il nome del creatore. E lui le disse verso quella lettera: sei bella e sei buona e sei vera. Linea 19. Ma come le lettere della parola Sheker, menzogna, ti hanno portato a loro, la prima lettera della parola Sheker è Shin, e che ottiene Kuf e Resh dietro di lei. Insieme diventa Sheker, menzogna, falsità. Affinché tu fossi insieme con loro, non desidero creare il mondo attraverso di te. Vedremo quali forze sono inerenti alla creazione del mondo. Anche qui vedrai che le bugie non sono un potere intrinseco dell'universo. È chiaro? Lo vedremo passo dopo passo. Non ha nulla a che fare con la morale. Naturalmente anche la morale è importante, ma la morale è derivata da esso in termini di forza. Impariamo le forze e non l'etica concettuale delle etiche religiose che ne è derivata. Con l'etica religiosa si possono fare tutti i tipi di cose strane. Poi impareremo la Kabbalah costantemente a non fare cose strane. mentre la religione non garantisce assolutamente all'uomo che non lo farà. Capisci? Impara, ma lo fa. Insegna, ma lo fa. Un po' di rimpianto e quindi un po' questo e un po' quello non con noi. È come un forno. Karnas in fiamme. Entriamo, siamo purificati e veniamo ogni giorno come più puro oro e argento dal forno. Chiunque l'ascolta e lo desidera, lo fa. E chi non vuole che vada avanti, non ne ha bisogno, si sente bene. Dobbiamo sempre bruciare le cose per cui tutti i rifiuti stanno andando via. Viene fuori solo oro puro, santità. Lui dice perché quelle altre due lettere ti abbracciano, hanno bisogno di te, ti hanno portato, non voglio creare il mondo attraverso di te. Perché la parola Sheker, menzogna, non sopravviverà senza le lettere Kuf e Resh. Tre lettere formano la parola bugia. Shin è una buona lettera che viene al creatore. Ma il creatore ha detto, non posso creare il mondo da te. Perché? Perché se sei collegato a quelle altre due lettere, e quindi Sheker, bugia è formata. Sappiamo che il mondo è stato creato da entrambi i lati, l'uno contro l'altro, il bene contro il male, un sistema contro un altro sistema. Sheker è anche qualcosa che esiste, ovviamente a causa di qualcos'altro, ma esiste prima che la creazione si alza sopra la menzogna. Il creatore non ha fatto il mondo in modo che la menzogna non esistesse, perché allora l'uomo non avrebbe la scelta. Il potere delle bugie esiste, ma l'uomo deve. Il creatore le dice, la bugia non può sopravvivere senza le lettere Kuf e Resh. Vi porterà a se stessi. La parola bugia è composta di tre lettere. Le due lettere posteriori della parola bugia, Kuf e Resh, non possono effettuare la parola bugia senza di te. È chiaro? Devi essere accanto a loro, altrimenti ad essi mancherà qualcosa. Lui dice che è quello il motivo. Questa è quasi la traduzione letterale del testo Zohar. Ora viene la spiegazione di Sulam. Basta soffiare. Qualche secondo cancella completamente la tua concentrazione. Sblocca completamente te stesso per alcuni secondi. Quello è molto buono. Poi sarai di nuovo rinfrescato, proprio come se ti alzassi su una montagna. Solo 20 metri, siediti brevemente. Devi sempre fare questo. Non passando incessantemente, perché se insisti a continuare ti vieni occupato. Le forze impure ti hanno già catturato e dicono «Sii diligente, sii un bravo ragazzo, vai avanti». No, se senti che quei quattro patti con te si sono allentati, se una di quelle quattro alleanze di occhi, bocca, cuore e yesod inizia a rallentare, allora devi intervenire immediatamente e non aspettare di avere solo una o due o niente del tutto. Se senti che quei quattro patti di te, due nella testa, una nel cuore e una nella tua base, non formano una linea, anche se lavori per il tuo capo, devi dire al momento «Scusa, ora devo essere calmo per un paio di minuti». Non importa se c'è una riunione. Contro il tuo capo devi anche dire renderti assolutamente sciolto, finché non avrai di nuovo quei quattro patti in te. Questi quattro patti significano che sei attualmente incline al nome Avaya. Non pensare che tu solo con la tua testa, se pensi di essere totalmente focalizzato con i tuoi occhi dall'interno, la tua mente, quello non è abbastanza. Tu allora hai solo una lettera dal nome del Creatore. Non è male, ma non è completo. Quindi non hai nessun nome del Creatore, nessuna misericordia. Non sperimenti la misericordia, l'intero quadro non lo sperimenti. Per sperimentare l'intero quadro sono necessari quei quattro. Anche se suona strano, come il mondo lo trova ridicolo. Nel cristianesimo dicono anche così: chi si vergogna di me, anche io mi vergogno di lui. Quella è anche la posizione di Yesod. L'uomo pensa che uno dovrebbe pensare elevato, che quello è lo spirituale, ma non giù, che non è importante. Questo è assolutamente importante. Saremo meravigliati di ciò che è sulla lettera Shin. Stiamo andando a guardare. Spiegazione di due parole finali. Sono con Nukva Malkut. Finale è la fine, ma gli esistono due estremità. La prima finale di tutte le 10 Sfirot è Nukva, è chiamata Malkut de Malkut. Anche Malkut ne ha 10 e l'ultima è la finale, Malkut de Malkut. Ascolta solo. Anche qui arriva la nostra correzione, assolutamente. E quella è la lettera Tav, la Malkut de Malkut, per cui è stata fatta la restrizione. Abbiamo imparato che la lettera Tav era sigillata. La Malkut de Malkut è la lettera Tav, finale. E la penultima è chiamata Yesod la Malkut, perché prima tradurremo. E quella è la lettera Shin. Abbiamo detto che era anche il jolly della lettera Shin. Shin disse: faccio il nome dell'Onnipotente. Anche negli umani, quello è Yesod di Malkut. Passo dopo passo. In Malkut de Malkut non possiamo ricevere nulla. Ecco dove prevale il mescolarsi delle forze. E là il sa, quello che non lo possiamo usare, quello non lo possiamo usare. Ma possiamo usare Yesod della Malkut. Dobbiamo tirare un po' su la nostra Malkut a Yesod. Yesod è già proprietà del Creatore. La luce può venire, ma in Malkut del Malkut no. Ciò è anche un po' correlato alla domanda di Foster. Un'altra volta, le ultime quattro lettere dell'alfabeto, Kuf, Resh, Shin e Tav, sono le lettere di Malkut. Lui dice che la Shin è Yesod di Malkut. È un po' strano per noi per il momento, perché quattro lettere, Tav è Malkut de Malkut, Shin è Yesod di Malkut, e poi rimangono due lettere. Devono essere 10 lettere. Bene, quello arriverà. Ed è perché lei, Nukva, è senza costruzione da Avi, papà e mamma. Prima lo traduco. Quindi la lettera Tav è considerata di essere la sua finale. Quindi, quando Nukva Malkut, nel suo stato imperfetto, non è costruita da Binah, allora la sua fine è Tav. Lei finisce in Tav nel suo stato non corretto, come se non è stata costruita. E la lettera Tav è il pesante di Nim. tale a come sentiamo quando siamo giù nella parte inferiore del nostro parzuf, malkut, sotto, che sentiamo di essere completamente nelle forze impure. È un po' come la malkut, ma dopo nel santo. Esso è il grande dinim, lì è come se non si avverte la misericordia. Come scritto sopra, abbiamo recentemente appreso che con la lettera Tav è un enorme dinim, severità. E quando quella nukva è costruita, diventa un parzuf, quindi non solo è un punto, ma ha sfirot che sono collegati ad avi, diciamo binah, ma da kochmah e binah, dal superiore avi. In definitiva, ogni cosa sarà costruita da avi. Linea 29. Quando sarà costruita, allora sentirà la fine in lei stessa, corrispondente alla lettera Shin. Quello è Yesod di Malkut. Vi farò un piccolo commento. È assolutamente importante per noi. Inoltre, non dobbiamo reggerci alla Tav, che è uno stato non corretto quando non c'è movimento spirituale. Dobbiamo sempre tirare un po' a Yesod, e ciò significa che ti tiri un po' in su, venendo a Yesod. Yesod è già luce, e quindi si arriva alla somiglianza, in accordo ai poteri del superiore, chiamato Shaddai, onnipotente. C'è di più in questo nome del creatore. Oggi vedremo di cosa si tratta. Shaddai significa She, che, dai abbastanza, è abbastanza. Il creatore ha detto che è abbastanza, dai sufficiente. Qual è il nome del creatore? Qual è il potere? E il potere dell'Onnipotente è quello di portare l'estremità corretta, di posare la base corretta per la sua creazione. Ci sono due parti inferiori. Una in fondo è la lettera Tav, l'ultima lettera, che non è applicabile fino al Gmar Tikkun, correzione finale. Dobbiamo saperlo. Pertanto, se qualcuno pecca come Adam, è l'uomo che da migliaia di anni sta cercando di finirlo. Lo voglio ora, in un modo sbagliato. Vuole tirarlo dalla Tav a se stesso. E quello è impossibile. Ogni essere umano viene alla dannazione a causa di ciò. Non importa quali poteri ha. L'uomo deve usare il fondo superiore, Yesod di Malkut, perché leggermente su. Quello è ciò che il creatore vuole, perché è quello. Corrisponde al nome del creatore di Shedai, questo è abbastanza. Il creatore ha detto, fino a qui e non oltre devi andare. Tutti i 6.000 anni di correzione sono necessari per andare qui e non oltre. E Adam è appena andato di sotto. È chiaro? Lui gli ha dato tutto. Chava, Eva, fai quello che vuoi, ma non il modo in cui porti lei e te stesso a quella Tav e tiri giù, perché poi le cose ti vanno male. Pertanto lui li ha portati fuori dalla corte dell'Eden. Se veniamo sempre a Yesod di Malkut, dobbiamo impararlo. Quando tiri un po' a Yesod di Malkut, allora sarai connesso con il superiore, con il Gan Eden, giardino dell'Eden. Stai andando ad attirare dal giardino dell'Eden. Il giardino dell'Eden era sopra e sotto. Anche qui sulla terra c'era il giardino dell'Eden, perché tutto deve combaciare. Giardino dell'Eden, ti spiegherò qualcosa anche se non si è ancora parlato. L'ingresso del giardino dell'Eden è alla tomba dei patriarchi in Hebron. Intendo spiritualmente, e non che stai guardando con le lanterne dov'è quell'entrata, ma quella radiazione. Puoi sperimentarlo solo se hai l'accordo di proprietà. Se un uomo sa quello, Adam ha potuto trovarlo, si era pentito. Solo quando moriamo, ogni essere umano quando muore, va alla condizione che vedrà Adam. Anche i cattivi che muoiono, da loro vedi un po' di luce in faccia, perché vedono l'entrata al Gan Eden. Perché? Tutti noi abbiamo una linea ad Adam. Ebrei, cristiani, musulmani, sciamani, americani e papuani, tutti hanno la stessa origine e solo un caleidoscopio di poteri. Tutti vengono quindi all'entrata del giardino dell'Eden e tutti vedono Adam. Nello Zohar impareremo ulteriormente cosa significa. Quindi lì a Hebron, in quella tomba, c'è il potere dall'alto dove è l'entrata, fino. Pertanto Abramo comprò questo posto. Lui sapeva, come lo sapeva? Lo impareremo tutti. Tutta la storia più le forze. Sapeva che dalla vetta viene il raggio. Ancora una volta, la penultima è diventata la lettera Shin, Yesod di Malkut. Qui le tre teste della lettera Shin, tutti vedono le tre teste della lettera Shin. Tre Yud, tre punti. La lettera Shin ha uno stelo e sopra è una testa come la Vav, quindi tre teste. Riferito a noi dello splendente pezzo nel mezzo di Chesed Gvura Tiferet, da Ima Bina. Come mai? Ogni cosa va a posto, ma lo sai già. Nukva è costruita da padre e madre e acquisisce Zivugim. Il suo corpo lo riceve da Ima, ma il potere che lui gli dà è Zerampin. Impareremo tutto questo. Passo dopo passo, con tutti noi, ci saranno rivelazioni. Lei ottiene Hagat da Ima, ma quel Hagat, lo splendore di Ima, lei lo riceve da Zerampin. Non puoi ottenere dall'alto se non ci sono intermediari. Ima e Bina e Nukva. Ima e Bina e Nukva è sotto e tra loro è Zerampin. Ima dà, Zerampin lo passa e Zerampin lo dà a lei. Impareremo tutto. Primo, la Nukva non è stata costruita e la sua estremità era la lettera Tav. Non può farci nulla, non può riceverlo, non brilla nulla in lei, come fondo alla lettera Tav. Ora, dopo la correzione, lei ottiene un altro di sotto, Yesod, che significa che Malkut è venuta su a Yesod. Yesod brilla. Lei è poi costruita da Ima, Avi, da Abba. Ima le dà proprio come qui sulla terra, un pezzo di carne, di corpo. Anche qui Ima dà il suo pezzo inferiore. NHY a Nukva. Lo Zohar dice, impareremo, che la madre dà, per così dire, il suo vestito a sua figlia. Questo è figurativo. Ima le dà luce, Hagat, e lo dà a Zerampin, che lo dà a lei. Come lo porta Zerampin? Zerampin ha anche Yesod, e lo porta a Yesod di Nukva. Tutto deve corrispondere. Yesod può trasferire ad un altro Yesod. Tutti sentono quello che sto dicendo. Tutti sanno cos'è Yesod, anche nel nostro mondo. Yesod contro Yesod. Yesod non lo puoi fare in opposizione alla pe, contro le labbra. Tutto deve corrispondere agli attributi. Yesod contro Yesod. La sessualità non è nient'altro che Yesod contro Yesod. Tutto deve corrispondere alle proprietà. Non ho detto nulla, devi sapere da te stesso di cosa si tratta. Perché così? Zerampin lo porta alla Nukva. Lui porta a lei Yesod tramite il suo Yesod. Passo dopo passo lo sentiremo. Impareremo Zohar e impareremo molti segreti. Accetta quello che dico, tutto è in arrivo. Se qualcuno mi avesse detto prima che io imparassi la Kabbalah che dovevo fare così tanti anni e tanti sforzi, prima ho fatto 2 anni e mezzo, giorno e notte, Talmud, Hesser HaSfirot. Dopo qualche anno, Ari, 10 volumi, 5 non li ho fatti, commenti di altri cabalisti minori. Per me è un po' da commento, ma so chi sono per me i cabalisti bravi e meno bravi. Poi ho fatto Zohar per altri 2 anni, sommali. All'inizio del suo lavoro spirituale, l'uomo può dire, io dovrei fare tutto? Lo dovrei fare tutto? È inimmaginabile quel potere impuro. È un grande compito per noi. All'inizio, se guardi 3 anni fa che abbiamo iniziato il nostro corso, abbiamo iniziato con tanto di tam-tam con cognac, whisky, canto, piccola New Age. Così devi iniziare naturalmente. Non ero ancora pronto. Non sapevo come sarebbe potuto accadere. Se dovessimo vedere chi è di fronte a noi, quale enorme potere è il Sa, se aprissimo i nostri occhi interiori per poter vedere la verità. Lieto che il Creatore non ci mostri la vera verità, perché se dovessimo vedere la verità, vedremmo ora quanto potere quel Sa, il nostro faraone, è. Allora diremmo, non uscirò mai dall'Egitto, rimarrò qui, ministro, professore, non ho alcuna possibilità di uscire. Moriremmo immediatamente se sapessimo quale potere è in noi, lo spirito che è nascosto in noi, proprio come lo spirito nella bottiglia che non esce. Se siamo arrabbiati, guarda quale potere viene fuori. Nella strada in cui vivo, quando c'è un litigio, quello esce dall'auto completamente rosso e potrebbe uccidere l'altro. Si astiene, ma che tipo di forza c'è nell'uomo? E tutto quello viene dal Sitra Achra, S.A. Sa, tutto quel litigio con la macchina, quasi collisione, immediatamente viene il Sitra Achra, Sa, per impadronirsi di esso. Tutto è legato. Se vedessimo che grande potere è, non inizieremmo il lavoro spirituale. Come con lo Zohar, quello che facciamo ora, iniziamo un po'. E le forze impure vogliono solo distrarci, non ascoltare, non sentire, solo distrarre. Si sente che è attaccato, ma lentamente si arrende. Perché? Il Sitra Achra è così grande perché gli abbiamo dato lo spazio. Ci è stato dato il potere anche dopo tutto quel peccato, tutta quella miseria, i peccati di generazioni. eccetera. Ora siamo capaci di lavorare con esso in questa generazione e indebolirlo in modo buono a spese del santo. Questo è ciò che facciamo con Zohar. Da nessun altro modo l'uomo viene alla salvezza. Altre cose impariamo che ci aiutano. Di nuovo, solo lo Zohar, non la Torah. Devi fare anche quello, ma ti salverà? No. Insieme dà la forza, ma lo dico di nuovo, ciò lo sai bene. Lo Zohar è assolutamente il più importante per noi. E ovviamente Etz Chaim come seconda forza. Lo Zohar è assolutamente importante. Faremo Tess, ma lo Zohar è ogni cosa. Più tardi espanderemo principalmente lo Zohar. Nessuno può tollerare lo Zohar. Provavo ad usarlo per imparare una volta alla settimana, ma non funzionava. Devi lavorarci sopra. Certo, Tess è utile, carino, ma se vuoi la salvezza, lo Zohar è nient'altro. Lo capiremo grado dopo grado. Da Yesod, Malkut, impareremo molto anche in Etz Chaim e anche in Tess, ma impareremo quali Sfirot, ma non nelle forze di Zohar. Tutte le connessioni che Zohar ci dà, Yesod, Malkut, cielo e terra, tutto quel tipo di relazioni non può essere trovato da nessuna parte, nemmeno nella letteratura cabalistica. Voglio solo dirti la verità. Non importa se non capisci, così è. Contro uno studente, stai facendo con la testa come se non fossi soddisfatto. Tutto ciò che dico ora viene dall'alto. Anche se non sono impegnato con Zohar, tutti quegli ammonimenti e anche quello assolutamente necessario. Sento come è nella stanza. Ora ci dà un versetto del passaggio sulla luce da Ima a Zerampin a Nukva, nel segreto delle scritture. È un versetto della Torah, Bamidbar. Bamidbar. I grandi potenti hanno scavato un pozzo su Abraham e Isaac. Beh, solitamente è Nukva Malkut. È iniziato con Abramo che ha trovato un pozzo. Tutti i nostri antenati lo hanno fatto. Cosa significa trovare un pozzo d'acqua sempre più profondo? Dobbiamo fare lo stesso. Il nostro interno è cresciuto troppo, proprio come la lettera e il pozzo sono già in noi, ma è cresciuto troppo. Il merito dei patriarchi era che, tramite il dare, avevano costruito il potere di lasciare che la luce trovasse i pozzi. Come? Non come fece Adam tirando giù la luce Chochmah per se stesso, ma per inserire la luce Chochmah come era nei Chassadim. Chassadim viene dalla cima a sotto e Chochmah va dall'alto verso il basso. Tutta l'arte per noi, l'intera formula di salvataggio è costruirla. Per costruire la linea centrale sopra il centro, con la luce Chassadim che viene dalla cima verso il basso, e Chochmah va da sotto verso la cima. La miscela di Chochmah e Binah, la custodia è Chassadim, e c'è una linea sottile di Chochmah e che può essere portata giù, quindi non solo. Chochmah in Chassadim, e Chochmah deve guardare su e Chassadim giù. Chochmah diventa, per così dire, Or Choser, luce riflettente. Sono sempre nella direzione opposta. Or Chassadim, la direzione opposta, è Or Kochma. Quindi se Or Hasadim va da sotto verso la cima, allora dalla cima sotto viene Or Kochma. Quando Or Hasadim sta venendo, c'è più Hasadim che Kochma. Quindi Or Hasadim va giù e Or Kochma su. Questa miscela insieme va giù. Ecco la formula di salvezza. Quello è il ricevere kosher. Questo è quello che chiama alla fine. Quale fine? La lettera Shin. La lettera Shin è allora la fine, lo menzionerà più tardi, il luogo di Yesod, il luogo in cui vive l'uomo, e non la fine del deserto e distruzione, Hurban, che è un caos. Dobbiamo trovare quel posto di Yesod di Malkut in noi stessi. Ciò dà un potere gorgogliante di un pozzo, il potere inesauribile dell'acqua, che ha in sé, che è purificante e che rimane, o come un ruscello. Abbiamo bisogno di ricevere in quel modo in cui Kochma non guarda giù, ma guarda in alto. Kochma insieme con Hasadim. Impareremo di cosa si tratta. Prendilo da me. Kochma su e Hasadim giù. La stazione finale è allora Yesod di Nukva. Chi lo sta portando sopra? Yesod di Zerampin lo trasferisce a Nukva. Yesod contro Yesod. Perché da questo splendore, lo splendore viene da Binah, da mamma, tramite Zerampin a Nukva. Nessuna luce viene dalla cima al basso senza Zivug. Ricordalo, ogni cosa viene attraverso lo Zivug. Ogni cosa viene attraverso il maschio e la femmina. Nulla può venire dalla cima al basso senza Zivug. Nessun piacere, nessuna luce proviene da cima a sotto senza Zivug. La femmina chiede e il maschio dà. Ogni bisogno è femminile e ogni ricezione è maschile. Non importa chi è maschio o chi è femmina. Se una donna ha bisogno è femminile e se un uomo ha bisogno è anche femminile. Se tutta l'umanità è nel bisogno, tutta l'umanità è femminile rispetto con un superiore. È tutto relativo. È lì per ricevere 100 benedizioni da Zerampin. Nukva riceve 100 benedizioni da Zerampin. Impareremo cosa significa. Inoltre, se impari, ad esempio, come questo ci viene dato dalla legge, allora vedi che dal re David è stato stabilito che una persona deve dire 100 benedizioni al giorno. Come? 3 volte al giorno una persona mangia. Un ebreo dovrebbe pronunciare le benedizioni prima e dopo aver mangiato. Se sommi quante benedizioni ci sono, ora non voglio venire con una calcolatrice. 3 volte al giorno un uomo deve dire la preghiera. Nella Midah, preghiera, in piedi, ci sono 19 benedizioni. Aggiungi tutto quello e tra mangiare una mela, andare in bagno, lavarsi le mani, eccetera, in tutto sarà 100. Può anche essere di più, ma non cercare di parlare artificialmente. Così stai mangiando una mela e poi, dopo un quarto d'ora, mangi una data cosa per ricevere più benedizioni. Non dovresti farlo. Non è male, una bella invenzione, ma ciò che fai di default sono 10 benedizioni, sono 100 benedizioni. Il re David lo ha stabilito e il mio popolo, chiunque lo faccia, lo fa bene. Impareremo tutti perché è così e quali forze sono legate adesso. Sarà così che anche se non lo fai effettivamente, che conoscendo come funziona e radunando le forze, sarà conteggiato come se lo si fa se quello sempre di più. Facendolo solo con mani e piedi è una preparazione per più tardi, quando una persona crescerà. Un uomo cammina con la barba e lo sta facendo da 75 anni, ma dall'alto è visto come se non fosse ancora nato. Nascere significa rinascere per lo spirituale. Ero anch'io assolutamente morto, versavo morte, prima che toccassi la Kabbalah. Hashem mi ha lasciato gustare tutto. Io dall'interno non volevo assolutamente vivere. Volevo suicidarmi, Hashem non voglia. La mia vita non era più niente con ogni cosa che ho imparato. E con la Kabbalah ritorni di nuovo in vita, che significa essere rinato. Yeshua, Gesù, ha anche detto esattamente la stessa cosa che facciamo, rinascere. Il più grande della sua generazione non lo capì, nemmeno il rabbino Gamliel. Anche adesso non capiscono, sanno che la Kabbalah è il potere divino che porta in vita un essere umano in modo meraviglioso, ma non lo vogliono. Dopo 13 anni un essere umano nasce spiritualmente. Fondamentalmente, se un uomo è al bar mitzvah, 13 anni, è cresciuto e poi quando è ben preparato gli dà anche un pezzo di Zohar. Allora deve essere quello se l'essere umano è rinato. Fino a 13 anni l'uomo è assolutamente nel Sa, Sitra Achra, potere impuro, assolutamente. Naturalmente ci sono anche buone scintille, ma si nutre sui poteri impuri. Perché è così difficile per noi trattare con il Sitra Achra? Guarda attentamente cosa ci dice lo Zohar. Appena l'uomo è nato, così alla nascita, con lui penetra istantaneamente il potere impuro, il cattivo principio. Non quella pazzia che ci dicono tutte quelle religioni, che una persona è buona alla nascita. Ricorda ciò che dice lo Zohar. L'uomo è nato con il potere impuro, con il cattivo principio, non con il buon principio, neanche nel germe. Ricordalo molto bene. La sua anima gli è data, ma solo nel germe. L'anima non ha nulla a che fare con il bene e il male. È ovviamente buona. L'uomo ha tendenze buone e cattive. Non appena un uomo lascia l'utero materno, il cattivo principio è incorporato in lui. Solo quando ha 13 anni, non solo 13 anni di calendario. Qui lo sviluppo potrebbe avere a che fare con esso. Ma a volte una persona può avere 70 anni e non è ancora sveglio. Da 13 anni, quando lui come maschio diventa adulto, il principio buono entra in lui. Pertanto è così difficile per noi ricevere quello buono, perché il buono è come se fosse un nuovo arrivato. È più giovane dell'altro. L'uomo ha 13 anni e chi gli ha insegnato per primo? Il cattivo principio gli ha dato lezioni e poi arriva il secondo. Pertanto, nelle leggi ebraiche c'è un accenno su di esso, che un giudice non ascolta una delle parti senza che l'altro sia coinvolto. È chiaro, non si parla del nostro mondo. C'è una legge nella Torah che il giudice non può ascoltare una parte. Due parti intentano un'azione legale e dice che una è già in aula e l'altra deve venire, che è ancora nel tram o nel traffico. Il giudice poi dice cominciamo perché ha un appuntamento con la sua concubina, la fidanzata. La Torah dice che non puoi ascoltare la testimonianza dell'uno prima che l'altro non sia lì. Lo Zohar ci dice cosa riguarda tutto quello. Quello che dico. Il cattivo principio, prima che il bene entri, da 13 anni sussurrerà cosa fare. Naturalmente c'è una relazione distorta, perché ciò non è permesso. L'uomo deve cercare così tanto di non ascoltare. Come può una persona fare quello quando lui ha solo il cattivo principio in se stesso? Pertanto è difficile per noi in seguito ascoltare il principio buono. Siamo già formati dal cattivo principio. Tu dici no, la mia opinione è diversa, perché sei formato da tutti quegli anni dal tuo cattivo principio. Capisci cosa intendo? Anche con me esattamente lo stesso. Ho pensato con la testa. Il mio cattivo principio ha iniziato a interpretare ogni cosa nel modo in cui il cattivo principio mi aveva suggerito, prima che il principio buono venisse in me. Pertanto, la legge è che ci devono sempre essere due parti, lato buono e lato cattivo. Il principio buono diventa effettivamente il principio guida. Esattamente, più tardi. C'è anche scritto «l'ultimo sarà il primo», che è anche una di quelle cose. Viene più tardi e diventa il primo. Anche la nascita di Yaakov ed Esav. Yaakov ha tirato Esav dal suo tallone. Quella lotta che avrà di diritto il primogenito ha tutto a che fare con quelle cose. E poi dopo, quel giovane, ci è stato detto di Esav con la pronuncia della benedizione del padre da Isaac a Esav. Rivka, la loro madre, nel suo ventre ne aveva due. Qui ci suggerisce che le forze del principio del bene e del male come bene. Lei venne a chiedere ad Hashem cosa stesse succedendo, come entrambi tiravano su lati diversi. Lei venne alla Yeshiva, Talmud Academy di Shem. Shem visse molto a lungo. A lei gli fu detto dall'alto che il più vecchio servirà il più giovane. Quindi Esav servirà Yaakov. Ciò significa che il cattivo principio servirà il buono principio. Quando? Quando Yaakov si conformerà alla Torah. Esav lo servirà non come un servizio di schiavi, ma da quel servizio sarà corretto. Capisci? Con il servizio di Esav a Yaakov, servendo il buon principio, sarà anche sottoposto a correzioni. Se Yaakov non lo fa, allora, così è scritto, viene liberato da lui. Il potere di Esav viene allora rilasciato da Yaakov. Yaakov è ovviamente in difficoltà, perché il lato cattivo dominerà, e quindi verrà tutta la miseria nel mondo. Esav allora si sente libero. Poi lui, Titanic, porterà guerre, farà qualsiasi cosa senza il potere che lo contrasta. Sta andando a tirare Kokma giù, mentre l'arte è dall'alto è dato che il genere umano deve fare Kokma verso l'alto, come luce riflessa. Questo è abbastanza per oggi.